Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché non giungesse il seme oggetto della promessa, promulgata per mezzo di angeli tramite un mediatore. Ma un mediatore non esiste quando si tratta di una persona sola, e Dio è uno solo. La legge allora va contro le promesse di Dio? Non sia mai detto. Se infatti fosse stata data una legge capace di dare la vita, la giustificazione si avrebbe realmente dalla legge. Ma la Scrittura ha chiuso tutte le cose sotto il peccato, affinché la promessa fosse data ai credenti per la fede in Gesù Cristo. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi come prigionieri sotto il dominio della legge, in attesa della fede che sarebbe stata rivelata. Cosicché la legge è divenuta per noi come un pedagogo che ci ha condotti a Cristo, perché fossimo giustificati dalla fede. Sopraggiunta poi la fede, non siamo più sotto il dominio del pedagogo. Tutti, infatti, siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede. Infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna. Tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù. Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Ora io dico, per tutto il tempo in cui l'erede è minorenne, in niente differisce da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto, ma è sottoposto a tutori e ad amministratori fino al giorno stabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo minorenni, stavamo sottoposti agli elementi del mondo in uno stato permanente di schiavitù. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio inviò il figlio suo, nato da una donna, sottomesso alla legge, affinché riscattasse coloro che erano sottoposti alla legge, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Poiché siete figli, Dio inviò lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, il quale grida Abba, Padre. E così non sei più schiavo, ma figlio. Se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Un tempo, non avendo conosciuto Dio, serviste come schiavi a dei che in realtà non lo sono. Ora invece, avendo conosciuto Dio, o piuttosto essendo stati conosciuti da Dio, come potete rivolgervi di nuovo verso gli elementi senza forza e meschini ai quali volete di nuovo tornare a sottomettervi come schiavi? Osservate le prescrizioni riguardanti i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni. Mi fate temere di essermi affaticato invano in mezzo a voi. Diventate come me, poiché anch'io sono come voi, fratelli, ve ne supplico. Non mi faceste alcun torto. Sapete che a causa di una infermità fisica annunciammo il Vangelo a voi per la prima volta. E per quello che costituiva per voi una prova nel mio fisico, non dimostraste disprezzo né nausea, ma accoglieste me come un inviato di Dio, come Gesù Cristo stesso. Dov'è dunque adesso il vostro entusiasmo di allora? Vi do atto che se fosse stato possibile vi sareste strappati gli occhi e me li avreste dati. Vi sono forse diventato nemico, dicendovi la verità? Mostrano un interesse acceso per voi, però non rettamente, ma vi vogliono isolare da noi, affinché abbiate interesse per loro. È bello avere un interesse vivo per il bene, sempre, e non solo quando io sono presente tra voi, figli miei, per i quali soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi. Vorrei proprio essere presso di voi ora e parlarvi a tu per tu, poiché sono ansioso nei vostri riguardi. Ditemi, voi che volete stare sotto la legge, non ascoltate ciò che dice la legge? È stato scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello avuto dalla schiava è nato secondo la carne, mentre quello avuto dalla donna libera è nato in virtù della promessa. Tali cose sono dette in termini simbolici. Le due donne sono le due alleanze. Una proviene dal monte Sinai, genera i figli per la schiavitù, ed è Agar. Ma Agar significa il monte Sinai. Questo sta in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme di adesso,

i vostri figli e le figlie agli abitanti di Giuda, che li rivenderanno ai Sabei, ad un popolo lontano. Sì, è il Signore che parla. Annunziate questo tra le genti, proclamate la guerra santa, svegliate gli eroi, avanzino, salgano tutti gli uomini d'armi. Trasformate le vostre scuri in spade e le vostre falci in lance. Il debole dica: sono un eroe. Su, venite, nazioni tutte d'intorno, riunitevi là. Signore, fa scendere i tuoi eroi. Si destino, salgano le genti verso la valle di Giosafat. Là io mi siedo per fare il giudizio a tutte le nazioni d'intorno. Impugnate la falce, la messe è matura. Venite, pigiate, è pieno lo strettoio, traboccano gli orci, grande è la loro malizia. Folle e folle nella valle della decisione. È vicino il giorno del Signore nella valle della decisione. Sole e luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggisce da Sion, da Gerusalemme fa sentir la sua voce. Ma il Signore è rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Così sapete che io sono il Signore vostro Dio, che abita in Sion, mia santa montagna. Gerusalemme è un santuario, gli stranieri non vi passano più. In quel giorno le montagne goccioleranno di vino, le colline scorreranno di latte e tutti i torrenti di Giuda rigurgiteranno di acqua. Una sorgente zampillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle delle acace. L'Egitto diventerà una landa solitaria, Edom un deserto desolato, per le violenze contro gli abitanti di Giuda, per il sangue innocente versato nel loro paese. Ma Giuda sarà abitata per sempre, Gerusalemme di età in età. Io dichiaro innocente il loro sangue, sì, lo dichiaro innocente. Il Signore abita in Sion.